La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Con l'articolo 83, la Costituzione passa ad affrontare il Presidente della Repubblica. È emblematica la topografia costituzionale, cioè nella parte seconda la Costituzione affronta l'ordinamento della Repubblica, quindi affronta i diversi poteri dello Stato che devono reggere la forma di governo. La posizione scelta dal Costituente non è casuale. Al primo posto il Parlamento, al secondo il Presidente della Repubblica, poi il governo, ancora la magistratura, le autonomie e alla fine le garanzie costituzionali, cioè Corte Costituzionale e procedimento di revisione. Il Presidente della Repubblica, quindi, si pone al secondo posto nell'elenco dei poteri costituzionali e ovviamente riveste grande significatività perché sostituisce la figura del re rispetto alla forma di Stato monarchica. Sappiamo che la nostra Costituzione trova base nel referendum del 2 giugno 46 e quindi ha come base la scelta fondamentale monarchia o repubblica. Quindi i costituenti erano liberi di scrivere qualsiasi tipo di Costituzione con l'unico vincolo di scrivere una Costituzione repubblicana. La curiosità interessante è che inizialmente, dopo la liberazione del territorio nazionale, si era pensato di rimettere all'Assemblea Costituente la scelta monarchia-repubblica. All'inizio del 1946, invece, c'era un grande timore in Italia di una possibile guerra civile e quindi c'era il timore che rimettere la scelta all'Assemblea Costituente potesse non dare un grado di forza significativa a questa scelta. E quindi emerse il timore che non poteva essere soltanto un'assemblea rappresentativa a decidere l'assetto fondamentale dello Stato. Per questa ragione, all'inizio del 1946, si decise di abbinare alle elezioni per l'Assemblea Costituente il referendum istituzionale. E quindi è stato il popolo a decidere la forma di governo fondamentale, rimettendo all'Assemblea Costituente la libertà di scrivere una Costituzione, ma col vincolo della scelta repubblicana e non monarchica. L'articolo 83 stabilisce l'elezione del Presidente. Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, Camera e Senato riuniti assieme. L'elezione viene integrata dai delegati regionali. Sono 3 delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in rappresentanza di maggioranza e minoranza, quindi normalmente 2 per la maggioranza e 1 per la minoranza. Sono previsti dei requisiti speciali per l'elezione, anche per quel che riguarda i quorum da raggiungere, cioè il Presidente deve essere eletto con maggioranze speciali. E quindi, nei primi 3 scrutini, la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea e dopo il terzo scrutinio la maggioranza assoluta, la metà più 1 degli aventi diritto. Il collegio degli elettori è composto da poco più di 1000 grandi elettori, per cui è molto difficile raggiungere i 2/3, oltre 660 voti ai primi 3 scrutini, ed è per questa ragione che gran parte dei presidenti italiani sono stati eletti solamente dopo il quarto scrutinio, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.